Arlecchino e Colombina. È inutile che tu pianga, Colombina, tanto ormai ho preso la mia decisione, dichiarò Pantalone accingendosi a partire. Andrò in giro per il mondo in cerca del figlio di mio cugino, Malo, che venne rapito dai banditi quando aveva 3 giorni. Lo troverò e lo adotterò. Malo riceverà tutto il mio denaro e tu non avrai niente. Tu, Colombina, sposerai il poeta Stenterello. La povera Colombina afferrò piangendo la mano del padre. Non voglio il tuo denaro, padre, ma non farmi sposare Stenterello. Amo Arlecchino. Il matrimonio avrà luogo il giorno del mio ritorno. E finché io sarò assente, tu rimarrai chiusa nella tua stanza. In quanto ad Arlecchino, ti proibisco di rivedere quel mascalzone. E con queste parole Pantalone partì alla ricerca del disperso Malo. Colombina venne chiusa a chiave in camera sua e Arlecchino, che l'amava, vagava per le strade triste e senza casa. Al calare della notte Arlecchino bussò alla porta dell'ultima casa della città. So cucinare, fare pulizie, le commissioni e il bucato. Non avete un lavoro per me? Il padrone di casa scrutò Arlecchino da sotto 2 sopracciglia folte nere e intanto si gingillava con la sua lunga treccia rossa. Un servitore, eh? Se sei bravo a cucinare ti prendo poiché mi devo maritare. Vieni dentro dal padron tuo bello, io mi chiamo Stenterello. Nell'ingresso c'era un baule aperto. Avete intenzione di viaggiare? Chiese Arlecchino. Proprio così. Vado a passare la serata dalla mia dolce fidanzata. Lo stupido padre l'ha presa a botte e l'ha rinchiusa giorno e notte. Piange e grida la poverina, la mia piccola Colombina. Colombina? Volete dire che sposerete la figlia di Pantalone? Sussurrò Arlecchino. Appena Pantalone torna a casa. Gli occhi di Arlecchino si riempirono di lacrime. Ma lei vi ama? Forse non ancora, ma l'amore verrà con il tempo. Non lo vedi che sono un portento? E sorrise mettendo in mostra un buco nero dove ci sarebbero dovuti essere 3 denti bianchi. E tu, amico mio a scacchi, mi aiuterai a portare i pacchi. Stenterello si infilò dentro il baule e si sedette sul fondo. Porta il baule e ogni cosa. Sarà un regalo per la mia sposa. Dille da parte di Stenterello. E fai presto, amico bello. Arlecchino chiuse il coperchio. Siete innamorato, padrone? Una voce soffocata rispose: sono innamorato devotamente di Stenterello qui presente. Arlecchino si issò il baule sulle spalle e lo portò fuori. Poi si incamminò lentamente verso la città. Si fermò a un ponte e si appoggiò alla spalletta. Lo getto nel canale e lascio che la corrente lo trascini verso il mare, pensò. Ma Stenterello gli aveva dato lavoro e Arlecchino dal buon cuore non voleva che galleggiasse sull'oceano per sempre. Riprese il baule in spalla, lo portò alla casa di Pantalone e bussò alla porta. Vai via, Arlecchino! Sbottò la nuova cameriera. Nessuno può entrare, in special modo tu! Ma porto un regalo per Colombina da parte del mio nuovo padrone. La cameriera era ancora sospettosa, ma aprì la porta. Portalo su da te, disse Arlecchino facendo finta di massaggiarsi la schiena. È troppo pesante per me, fece indispettita la cameriera. Portalo tu, invece, eccoti la chiave. Arlecchino a pezzi e bocconi spinse il baule per le scale, lo posò pesantemente al suolo e aprì la porta della camera di Colombina. Alla vista di Arlecchino, Colombina si rallegrò immensamente. Signora, disse Arlecchino inchinandosi con eleganza, vi porto un regalo da parte del vostro fidanzato Stenterello. Questo baule contiene ciò che egli ha di più prezioso al mondo. E gli fece l'occhiolino. Colombina dapprima non riusciva a capire, poi un sorriso le illuminò il viso e a voce molto alta disse: che sarà mai? Dici che è la cosa più preziosa che ha? Forse il suo cavallo. Ma io non voglio un cavallo, Arlecchino. Portalo via e vendilo. Oh, ma potrebbe essere il suo bellissimo mantello di velluto rosso, disse Arlecchino sempre a voce alta. In questo caso sarà pieno di pulci. Porta giù il baule e brucialo. Ma potrebbe non essere il mantello, potrebbe essere un tesoro in monete d'oro. E Arlecchino quasi non riusciva a trattenere le risate. Questa poi la vedremo. Portalo giù al canale e buttacelo dentro. E se è oro, andrà subito a fondo e dopo potrai ripescarlo. Da dentro il baule si sentì uno strillo soffocato e uno sbattere contro il coperchio. Però potrebbe non essere nemmeno oro, potrebbe essere perfino Stenterello, giacché egli mi ha detto che ama solo se stesso, insiste Arlecchino. In questo caso puoi farlo a pezzi con l'accetta, Arlecchino, perché tu sai bene che io amo solo te, replicò Colombina. Il coperchio del baule si aprì bruscamente e Stenterello saltò fuori come un razzo. Non si curò di aprire la porta, ma saltò direttamente fuori dal balcone. Non voglio essere venduto, né affogato, né incendiato, né preso a colpi d'accetta. Aiuto! Assassini! Salvatemi! Arlecchino e Colombina si abbracciarono e cominciarono a danzare. Scappa con me, Arlecchino. Io so dove papà nasconde il denaro. Lo prenderemo e ce ne andremo. Così lo incitava Colombina, ma Arlecchino scosse la testa. Non voglio derubare tuo padre, ma daremo una festa prima di andarcene e la chiameremo la festa di Pantalone, perché sarà lui a pagare il conto. Inviteremo tutti i poveri e i servitori che non vengono mai invitati alle feste. Intanto per la strada, sotto il balcone, Pantalone stava faticosamente rimettendosi in piedi. Era arrivato a casa giusto in tempo per ricevere Stenterello in testa. «Terra, aria e parapiglia, che Arlecchino si tenga tua figlia!» strillò Stenterello e corse via a gambe levate. Pantalone non entrò in casa. «La finirò con Arlecchino una volta per tutte. Se osa spendere anche un solo soldo del mio denaro, lo farò cacciare in prigione!» e se ne andò. Aspettò tutto il giorno, poi tornò a casa con le guardie. Non credeva ai propri occhi. La sua casa scalcinata era tutta decorata di bandiere e fiori e dalle finestre usciva il suono di una musica allegra. Servitori cenciosi e mendicanti stracciati stavano entrando a frotte in casa dalla porta principale. Alcuni lo videro e lo interpellarono. «Mille ringraziamenti, signore, per la sua generosità!» Gli ospiti affamati si sedettero a tavola e Arlecchino fece un brindisi. «Brindo alla felicità, al divertimento e all'amore, e a Pantalone che ha pagato questa festa. Spero che riesca a trovare quel malo scomparso e che sia felice con lui. Evviva!» fecero gli ospiti. «Arrestate quell'uomo!» urlò Pantalone indicando Arlecchino. Le guardie si gettarono su di lui, stracciandogli il vestito multicolore e mettendo in luce per un attimo un medaglione che Arlecchino portava sotto la camicia. «Aspettate!» gridò Pantalone e guardò la catena dal collo di Arlecchino. «Dove hai rubato questo medaglione, mascalzone? L'ho sempre avuto fin da bambino. Ma è il medaglione che io ho regalato al piccolo malo il giorno prima che venisse rapito. Guardie! Lasciate libero questo ragazzo! Egli è il figlio di mio cugino che ho tanto cercato e ha tutti i diritti di spendere il mio denaro come vuole. È come un figlio per me!» Arlecchino e Colombina si guardarono quasi non osando sperare. «Allora, papà, lo posso sposare?» «Naturalmente che lo devi sposare. È ora che continui la festa. Le nozze saranno celebrate questo pomeriggio. Malo, vieni qui.» «Sì, zio», rispose Arlecchino ubbidiente. «Se un'altra persona mi cade addosso dalla finestra, ti batterò finché ti ronzeranno le orecchie. È abbastanza chiaro?» «Perfettamente chiaro, zio.» «Evviva!» esultarono gli invitati. «Evviva!» esclamarono le guardie. E poi tutti si sedettero e fecero baldoria.